Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like. E mentre la suadente voce di Ella Fitzgerald vi ricorda che state per entrare all'ascolto di Spirito di, di Patata, sono Clo, vi saluto. Oggi avrete, per vostra sfortuna, solo la spalla, e quindi quando la spalla è sola difficilmente riuscirà a essere così spiritosa, ma vi accompagnerà comunque con della buona musica, delle chiacchiere e qualche curiosità fino alle 18.15, ora di Atti e Misfatti. Oysters and I go for oysters. I'll order oysters and cancel. Approfitto per salutare Valeria, ovvero il corpo portante, visto che io sono la spalla della trasmissione, bloccata da problemi logistici. Speriamo che ci stia ascoltando. Un bacio. Father and you say pater. I say mother and you say mater. Pater, mater, uncle, auntie, let's call the whole thing off. Ma almeno posso fare tutta la playlist come dico io. Bananas, I say Havana and I get Havana. Bananas, bananas, Havana, Havana. Go your way, I'll go mine. Other, so we better call the calling of us. Let's call the whole thing off. Insomma, che dire? Allora, c'è un fantastico mondo, quello delle applicazioni che tanto va di moda sui telefoni nuovi, che genera mostri, tanto per cambiare. No, ci sono due notizie, una un po' peggiore dell'altra, e che dire, c'è l'applicazione di un movimento di politico di donne. Adesso tutte queste tre frasi messe insieme, tre parole messe insieme, potrebbero sembrare esagerate, infatti lo sono. Però pare che esista l'applicazione per telefono di Se non ora quando. mai, possibilmente, quando fate queste cose, se non ora quando, mai. Altra applicazione fantastica che hanno dovuto ritirare, tra l'altro, dal mercato per numerose ed elevate proteste, è stata quella che permetteva agli uomini di localizzare le donne nella loro circostanza, cioè nel loro circostante, cioè sapete quelle cose che localizzano, no? La mappa, la contromappa, tu sei qui, non sei qui, però potresti esserci, e in questo tu sei qui, non sei qui, potresti esserci, pensa, potresti incontrare tutte queste ragazze e donne che stanno qui, perché non ce lo scordiamo, al di là di tutto quello che diciamo, sono anche dei fantastici, se uno non li usa con accortezza e attenzione, strumenti di controllo, i telefoni soprattutto. E quindi in tutto questo vagarlo ci stanno queste due applicazioni, una fortunatamente questa qui, diciamo, che permetteva agli uomini di localizzare le donne intorno a loro, è stata ritirata dal mercato, che poi vai a vedere se è vero, e mentre quella di Se non ora quando, io invito le nostre ascoltatrici a provarla, a sperimentarla, scaricatela sui vostri fantastici cellulari moderni e fateci sapere come funziona, se funziona, che cosa vi dice, non so, magari vi dà dei suggerimenti utili e rilevanti, sentite, va. A parte queste cavolate, siamo al 3 di aprile, è piena primavera, qualcuno ogni tanto appunto poi svalvola, c'è chi pensa di fare femminismo con le applicazioni, però che dire, c'è chi si lancia in questo femminismo del terzo millennio, no? Noi invece stiamo sugli 87,9 in modulazione di frequenza, quindi in orgogliosamente analogico, e ci ascoltiamo una canzone che c'ha un po' di anni, che è di Beth Orton, si chiama Stolen Car, e io ci sono affezionatissima, nonché una bellissima canzone. Last night, I couldn't help but notice a light that was long gone, still burning strong. You were sitting, your fingers like fuses, your eyes were cinnamon. You said you stand for every known abuse that was ever threatened to anyone but you. And why should I know better by now when I'm old? Not to. While every lie speaks the language of love and never held the meaning I was thinking of, and I can't decide over right or wrong. I guess sometimes you need the place where you belong. Some may sing the wrong words to the wrong melodies. Little things like this that matter to me. Others feel that you should stand for every known abuse to hand and all the things that they could never see. You said you stood for every known abuse that was ever promised to anyone like you. Don't you wish you knew better by now when you're old enough not to? mentre studio commentavamo che poi le notizie più allucinanti le prendiamo sempre dalla colonna destra dei media mainstream, tipo il Corriere.it e Repubblica.it, e c'è in giro, tanto per cambiare, come se fosse una cosa nuova, una pubblicità, perché penso che qualcuna di voi avrà anche visto, su per strada della EasyJet. Ovvero, cioè, lasciare a casa le mogli. Cosa si fa per volare? Lasciare a casa le mogli. Perché sempre, perché i creativi di cui sopra, che fanno le pubblicità, sono sempre gli stessi, hanno sempre le stesse idee, sono sempre una manica di macisti e sessisti. E questa era la nuova pubblicità, la nuova campagna pubblicitaria di EasyJet, che in giro con cartelloni e quant'altro per le città. E sì, io lascerei a casa loro. Quindi invito tutte le donne, le femministe e le lesbiche a boicottare EasyJet, che tanto, appunto, poi vantaggi per vantaggi, ormai questi voli scontati non esistono neanche più. Sempre a proposito di pubblicità e non pubblicità, ce n'è sempre un'altra. Girovagando per il web ci sono tantissime blogger che si occupano, ultimamente fanno questo monitoraggio militante, lo chiamerei io, di tutto quello che gira, delle pubblicità e dei messaggi che vengono veicolati attraverso le pubblicità. Ce n'è un'altra che pare stia girando sugli assorbenti, che lasci alquanto a desiderare, ma su quello c'è una lunghissima tradizione e storia, forse un giorno ci faremo pure una trasmissione. E chiacchierando con un'amica si parlava di belle voci, io vorrei, e quindi io scartabellato nella mia... Basta, dai, facciamo così, che non è vastissimo. Però nel mio vasto archivio di musica, e mentre pensavo a questa cosa, belle voci, ne ho trovate un paio che mi hanno ricordato che senso hanno per me le belle voci, tra cui una cantante che forse non è tanto conosciuta, che è Christine Hersh, che faceva parte di un gruppo, poi ha fatto una serie di dischi, le Twin Muses, non so se qualcuno di voi le conosce, poi ha fatto diversi dischi solisti, e io vi faccio ascoltare questa canzone che si chiama Spain. Lei ha una voce bellissima, molto sporca. Tiny moves, I hate to lose. quanto tempo. Questa era Christine Hersh, questa canzone si chiamava Spain, di un disco con la copertina blu di cui non ricordo il titolo però. A proposito di pubblicità, non so se vi è capitato di vedere, se vivete a Roma per esempio, uno di questi mega cartelloni sta sulla Casilina, all'altezza della circonvallazione Casilina, la prima... diciamo traversa, ed è un mega cartellone che credo pubblicizzi dei jeans, e qui siamo sul versante pubblicità pseudo lesbo chic transgressive quant'altro, cioè, quello che vi viene in mente ve lo potete dire, insomma quest'altra trovata pubblicitaria ovviamente mettiamo realizzata una delle fantasie erotiche yuppie yuppie di tutti gli uomini. E tra l'altro, con questa cosa che le due tipe che si baciano dietro davanti alla macchina di questo tipo, con i jeans, non mi ricordo, c'ha la scritta sopra censored. C'ha una pubblicità che è più brutta, ma brutta non se può. E comunque niente. Ragazzi, fate qualcosa, io non so, fate le graffe, fate qualcosa, facciamo un'agenzia pubblicitaria, cambiamo modo di fare le pubblicità. Perché veicolano tanti messaggi e tendenzialmente in questo paese veicolano sempre quelli sbagliati. Quindi adesso ci sentiamo una canzone che è vecchissima pure questa, sto in amarcord musicale oggi, però è una canzone fantastica con un video stupendo dove lei è bella come il sole, due fanali azzurri, capelli chiari, lei è Fiona Apple, suona il pianoforte, figlia di musicisti, comunque di persone, di artisti, nonché ha subito uno stupro e lo ha raccontato in un disco un po' come Tori Amos. Il disco era il suo secondo, Fast When the Pawn, c'era tutta la poesia e poi la canzone era Fast As You Can. Però noi ci sentiamo una canzone che gli dette tanto tanto tanto successo, la fece scoprire un po' a tutti, che è Criminal. I need to insomma, poi questa lunghissima coda di pianoforte. Tra l'altro la storia di Fiona Apple è veramente una di quelle storie di quelle artiste poi, diciamo, legate e imbrigliate alle case discografiche. C'è stato tutto un comitato anche per far uscire il suo terzo disco, che la casa diciamo discografica non voleva farli, che poi non ha fatto uscire perché diceva che era un disco troppo complicato e complesso, non era facilmente ascoltabile, tutte queste cavolate che si inventano, ma lasciatelo decidere a chi ascolta, per esempio. E quindi si creò addirittura un comitato per far uscire questo disco di Fiona Apple, che poi in realtà non uscì. Alcuni pezzi poi sono usciti già solo online su iTunes. Poi, vabbè, famosa sua c'è la cover di Across the Universe dei Beatles, che finì sulla compilation, eccetera, eccetera. Comunque lei è Fiona Apple, e questa canzone, sì, è molto molto bella. Lei pure è molto molto bella, ma ci ascoltiamo un'altra bellezza, un'altra bella canzone, che è Macy Gray. Sì, ve la rimetto dall'inizio perché ovviamente era partita con Winamp da sola. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming. Yeah. anche questa era una canzone che c'ha un pochetto di anni, era Macy Gray con I Try, e resta sempre bellissima, probabilmente uno dei suoi dischi più belli, credo fosse addirittura il primo, come al solito, come molto spesso. E che dire, se volete mettervi in contatto con me o con noi in generale, 0649 1750, la mail del martedì è mfla@andarossa.info. State ascoltando Spirito di Patata quest'oggi solo con la spalla, cioè che sarei io, Clo, Vale non c'è, e vi terrò compagnia, come vi ho già detto, fino alle 6:15. Facciamo un quasi strappo alla regola, lo confessiamo pure, del martedì, mettendo una canzone che in realtà è dei Massive Attack, però è cantata da una voce meravigliosa di cui dopo vi racconterò, e la canzone è Angel. Ce lo concediamo perché la vocalist è fantastica, dai. Che è quello che rende bella la canzone. Thank you. Vabbè, Angel l'abbiamo proprio rubata in realtà, mi sa. No, comunque in quel disco, a parte Angel, c'erano altre canzoni come T-Drops che erano cantate da Elizabeth Fair, che è la vocalist dei Cocteau Twins, altro gruppone New Wave anni 80 famosissimo. Invece questa che abbiamo di sottofondo, con questa canzone fantastica che è Trigger Hippie, sono i Morcilla, sempre per stare nel trip hop. Io intanto mi mangio il gelato. Di questa canzone ci fecero, sempre per stare in tema, persino la colonna sonora di uno spot pubblicitario. Io è così che la scoprì, come mi capita spesso di scoprire canzoni. Anche, non so se vi ricordate, quella di un famosissimo marca di succhi di frutta, che aveva la canzone di Nancy Sinatra, These Boots are made for Walking, canzone che tra l'altro noi al martedì mettiamo un sacco perché ci piace molto. Ecco, se dovessimo trovare una cosa positiva delle pubblicità, alle volte sono le colonne sonore, per il resto lasciano sempre molto molto molto molto a desiderare. Adesso, sempre in tema di belle voci, non belle voci, mentre sono le 17:56 e fra un poco vi libererò di me, ma non sarà tutto per oggi perché tornerò questa sera a Mini Pimer, e vi vorrei far ascoltare la cover di un cantautore italiano, cantata però da una delle belle voci del nostro paese, probabilmente l'unica, per quanto mi riguarda, bella voce, cioè in grado di andare su nelle note, nel pianoforte, eccetera eccetera, che adesso non mi sta venendo il termine, diciamo nell'estensione vocale. E ovviamente, penso l'avrete già immaginato, Mina, non certo la Pausini. E se avete pensato la Pausini, datevi una botta in testa, perché quella non è una bella voce, è solo una cantante che ama urlare a un certo punto quando arriva una certa, appunto, nota. Ma invece lei, che era una gran signora, resta una gran signora, nonché una gran cantante, aveva una voce e ha una voce dell'accidenti, canta questa cover di Alex Britti. Quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca. Non riesco a dirti neanche come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi. Come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, senza quella sensazione che non mi fa dire che mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché squallido provarci solo per portarti a letto. E non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora per parlarti finalmente, dirti solo una parola. Dolce più che posso, come il mare. Finita e non so ancora dentro come sei, non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione. E domani poi ti rivedo ancora e mi piaci per davvero, anche se non te l'ho detto, perché è squallido provarci solo per portarti a letto. E non me sfido chiunque a riuscire ad arrivare a quegli acuti. Io sicuramente no, perché tanto sono stonata in partenza, ma comunque sicuramente una voce notevole, e visto che lei è una voce notevole non possiamo che insomma farla seguire da un'altra grandissima voce notevole che è molto diversa ma altrettanto preziosa, ovvero Nina Simone. I move you. Cioè, sentite, ragazzi. Is it thrilling? Do I groove you? Are you willing? Dai, quelle voci che proprio te butti a terra di quanto sono belle. Tell the truth now. Pleases me. Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? that pleases me. No comment, no comment, raga, a me mi fa un sesso poi Nina Simone che non ve dico. Vabbè, a parte queste confessioni, vi volevo fare un'altra confessione. Il 20 di luglio suona a Roma Patti Smith. Se volete tanto bene alla vostra DJ preferita di un martedì sì e un martedì no di Spirito di Patata, potreste fare una gloriosa colletta e regalarle il biglietto, che lei ci vorrebbe tanto andare a vederla. Adesso che sono le 18.04 e voi siete quasi quasi salve, perché io sto per quasi quasi andare via, innanzitutto non me ne vado prima di mettervi due canzoni. Una è il leitmotiv della primavera ed è Cristina Donà con Miracoli, che tra l'altro suona a Roma a non mi ricordo se è aprile o a maggio. Comunque adesso farà prestissimo e poi risuonerà a Roma all'interno di Villa Ada del concerto quest'estate. Sì, perché ovviamente sta per arrivare l'estate, stanno per iniziare tutti i concerti concertini. Poi uno dovrebbe svaligiare svarie e variate banche, perché già non ci si ha i soldi per comprare il pane, figuriamoci per comprare i concerti. Però questi sono sempre dei problemi, ma non ci pensiamo adesso, dai, che sennò ci intristiamo. Invece c'eravamo tanto rallegrate e restiamo allegre, ci ascoltiamo un classicone dal freddo nord, ovvero Björk, con una canzone che io amo alla follia, che è Isobel. Comunque io ho squagliato tutto il gelato per il mixer, computer, c'è cioccolato e pistacchio ovunque. Enough for it. pensate che questa canzone sta in un disco che è Post, nonché uno dei primi dischi importanti, il secondo di Björk. Il terzo Homogenic, il primo non mi ricordo come si chiama perché la mia memoria è andata secoli e secoli fa. Comunque questo disco è del 1995. In realtà molte delle canzoni che abbiamo ascoltato oggi appartengono più o meno a quegli anni, dal 95 in su in giù, probabilmente perché sono gli anni... Vi faccio l'ultima confessione della giornata della mia formazione musicale o comunque della mia curiosità musicale, e do merito a Björk di avermi aperto le porte all'elettronica. Se non avessi ascoltato Björk, poi probabilmente non sarei arrivata al trip hop, non sarei arrivata ad ascoltare i Lembi, la Lipuna, l'elettronica minimale, l'elettronica poi da discoteca, tutta una serie di suoni e altri suoni che prima non concepivo neanche, venendo comunque, la mia formazione oggi non ve l'ho messa, ma venendo da Janis Joplin, da tutta la parte dei hippie e comunque dei San Francisco, del rock, da Jimi Hendrix, Janis e quant'altro, insomma quella musica lì, cioè Björk fu una verissima, qua mi fanno il segno di andare via, calcolate, dall'altro lato della regia. Comunque Björk è stata una grande apripista per me sul mondo dei suoni, dell'elettronica, sicuramente una grandissima artista, non per niente ancora in pista, e non a caso. E adesso che sono le 18:11, io vi ricordo che siete all'ascolto di Spirito di Patata, che questo è il martedì autogestito femministe e lesbiche sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming su www.ondarossa.info. Sono le 18.12, quindi io praticamente mando questa canzone e vi saluto. Ci rivediamo noi col martedì dopo Pasqua, quindi 17, se non sbaglio i conti. Comunque non nel prossimo martedì, ma l'altro ancora, con Spirito di Patata. Spero per voi, vi auguro che ci sia con me anche il corpo e che non vi dobbiate subire un'altra volta un'ora della vostra spalla preferita. Adesso la sentite di sottofondo, la canzone della primavera è Cristina Donà con Miracoli. Io vi saluto, buon proseguimento con l'MFLA. Ciao. Credo nei miracoli che la gente può fare, milioni di chilometri per potersi incontrare, per guardarsi negli occhi e spiegare un errore, per un gesto che forse sarà l'unico che potremo ricordare. Io credo nei miracoli che la mente può fare, milioni di chilometri senza doversi spostare, per creare una storia che prima non c'era ed una nuova invenzione, quella che salverà l'umanità intera. Forse non sai che la primavera arriverà a prenderti domani sera. Metti un vestito per l'occasione, preparati, c'è la rivoluzione. Rivoluzione. Sola può fare e canti le canzoni che ti han fatto sognare e ti danno la forza di combattere ancora. Per ogni nuova battaglia c'è una

of a soul.